Vangelo di Matteo, capitolo sedicesimo. E accostatosi a lui i farisei e i sadducei per metterlo alla prova, gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispondendo disse loro: «Quando si fa sera voi dite, bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non arrivate a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona». E lasciateli, se ne andò. Or i discepoli, passati all'altra riva, s'erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro: «Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Essi ragionavano fra loro e dicevano: «Egli è perché non abbiamo preso dei pani?». Ma Gesù, accortosene, disse: «O gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non aver dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei 5 pani e dei 5.000 uomini e quante ceste ne levaste? Né dei 7 pani e dei 4.000 uomini e quanti panieri ne levaste? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei». Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, venuto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figliuolo dell'uomo?» Ed essi risposero: «Gli uni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro rispondendo disse: «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». E Gesù replicandogli disse: «Tu sei beato, o Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Tolga ciò Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno».